viaggio allegorico si cela in questo componimento, durante il quale l'io reagisce durante il suo percorso ai vari ostacoli, non tratto di oracoli ma di consapevolezza di se stessi, intercalato nel tappeto sonoro composto da Play One. Si prega vivamente l'attenzione dei signori ascoltatori. Ripeto, si prega vivamente l'attenzione dei nostri ascoltatori. Grazie. È buio pesto, resto fermo dentro il ventre grigio. Pupille serve dell'ambiente del prestigio. Luna bruna verte, ambiti ambiti malefici. Ludi dionisiaci fra tetre pietre. Ambiente macabro che mi si profila clotto. Macro in moto, stila fili di vita. L'angoscia si incrocia con tensione in volt. Dogmi di wolf, informi chiuse in formi. Masse di carcasse, viste l'orizzonte. Un fronte nero e col 3 di Londra a monte. Occhi vigili, frigidi, cercano sbocchi con picchi adrenalini. Linici, critici in arrocchi. Cosa mi desta questo immaginario? Un percorso precario, ma il corpo non s'arresta. Come una macchina drastica procede, mente retrocede, femore prende piede. Notte imprevedibile nell'immaginario, riflettori sordi nell'abitudinario. Mi ritrovo solo, immerso nel silenzio, perso nel divario tra ordine e scempio. Notte imprevedibile nell'immaginario, riflettori sordi nell'abitudinario. Mi ritrovo solo, immerso nel silenzio, perso nel divario tra ordine e scempio. Ritrovandomi nel mezzo di questa angusta notte, vedo un orizzonte incerto, spettrale, come se fossi bendato e senza vista. Faccio leva sulla mia sicurezza. Ora percepisco sagome cartacee avvicinarsi. Installo, installo, mi fermo. Vedo un euforico statico nel senno. Voce aulica come musica lirica, dialettica da doge, perfetta e metrica. Lui è una sceta e senza metà blatera. Retorica aforica con bocca colta altera. Parole intatte, sole tratte i dadi. Nel casino del casino dei letterati. Futile nei discorsi, allora mi allontano. Ecco una suora con una croce in mano. Vomita valanghe di aride precettistiche, cronache bibliche, piaghe apocalittiche e medusa e divulgatore scatologici, urti ideologici, sillogismi illogici. Lei accusa dei concetti alzando i toni, a tratti parossistici, rifatti rumori. E presto prendo il tempo, esco dalla disputa. Una mano indica, la mia bocca ostica. In una falsa farsa o trimarchione grottesca, e detesta la mia concezione. Un dito medio rito, posa scontro affronto, pronto per un dritto contro il mio bronco. Sto zitto, prendo il colpo indolore, dato per rabbia di sabbia incolore. Notte imprevedibile nell'immaginario, riflettori sordi nell'abitudinario. Mi ritrovo solo, immerso nel silenzio, perso nel divario tra ordine e scempio. Notte imprevedibile nell'immaginario, riflettori sordi nell'abitudinario. Mi ritrovo solo, immerso nel silenzio, perso nel divario tra ordine e scempio. L'orizzonte muta il suo aspetto, nero e bianco. Con sospetto lecito mi chiedo cosa accadrà. Ecco l'eclissi nel suo splendore apocalittico. Provoca una reazione positiva, anche se si rifà viva la tensione. E la stanchezza si fa viva come la franchezza. Zero freschezza ma con soddisfazione e determinatezza. Mai come prima la demenza è fuori ma l'angoscia s'ostina. Sotto altra influenza la mente fremente ora s'affloscia. E la morte apre porte, si avvicina con facce insanguinate. Intralce, rintraccia le mie facce e tracce. Fissa mi guarda, un volto forte di inietta minacce. Un odore di sangue, sento il corpo smorto. Un momento pesante come ogni problema contorto appena sorto. E sento un calore latente, incorto il cervello, un malore penetrante, un dolore lancinante. Ma vedo lance solari e scalzo, mi innalzo verso il porto dei lari. Scorgo familiari e certi aspetti in sbalzo mi afferrano cari, sovrani mani morali. Perfezione nonché prefazione di ideali, una purificazione di mali. Recinzioni fra nuove epoche e gloghe, restrizioni bloccanti, a passo scaltro li scavalco. Comunizioni etiche, infatti passo il varco. Concezioni numeriche, sconquasso e prendo